Ieri 10 marzo 2024 si è tenuto un importante presidio sotto il carcere di Terni, dove attualmente è detenuto Hanan Yaesh, un compagno palestinese di 37 anni, nato al Tulkarem, che ha partecipato alla seconda intifada, è stato ferito pesantemente dall'esercito israeliano, incarcerato. Poi è riuscito ad uscire dalle carceri e prima si è recato in Nord Europa, dove è stato operato per estrarre proiettili che aveva nel corpo, e poi dal 2019 in Italia, dove gli è stato riconosciuto lo status di protezione speciale per motivi politici, proprio per la sua militanza palestinese. Ora succede che il governo, lo Stato di Israele, ha chiesto l'estradizione al governo italiano per degli inconsistenti motivi dovuti a segnalazioni su attività a Tulkarem, quindi di molti anni fa, probabilmente storti attraverso la tortura a detenuti che, uso comune, quando subiscono pressioni fisiche pesanti, per resistere fanno il nome o dei compagni detenuti o dei compagni che sono esuli fuori dalla Palestina, proprio per la garanzia di protezione. Quindi in questo contesto Israele, diciamo, provoca pesantemente chi fa resistenza e chi rappresenta la resistenza palestinese fuori dai territori occupati, chiedendone l'estradizione. È un no diretto quello che bisogna dare dall'Italia, sia perché appunto Hanan ha la protezione speciale, sia perché consegnarlo agli aguzzini sionisti significherebbe consegnarlo a un sistema che utilizza la tortura all'interno delle carceri, ma anche perché poi verrebbe giudicato da un tribunale militare, da una corte marziale, al contrario di quello che succede per esempio ai coloni, che nonostante l'illegalità totale delle costruzioni in territori occupati vengono invece, diciamo, giudicati, poiché sono ebrei, dai tribunali civili. Quindi non esiste un sistema giuridico equo, è un sistema giuridico da apartheid che divide e separa il giudizio tra gli ebrei e i palestinesi, che se vengono chiaramente giudicati da tribunali militari, e questo verrebbe meno proprio a tutti i presupposti che basano l'estradizione tra due paesi che devono riconoscere entrambi sia il reato, sia la modalità di detenzione, sia il passaggio da uno stato all'altro che deve garantire i diritti internazionali. Tutto questo non è garantito da Israele, che in più provoca, appunto, chiedendo un'estradizione senza alcuna consistenza. È un fatto politico, sarebbe un precedente pesantissimo, perché così come avviene per i curdi, pensa a quello che è successo con la Svezia, con la richiesta della Turchia di estradare i militanti curdi rifugiati ed esuli in Svezia, la stessa operazione sta facendo Israele, e se Hanan fosse consegnato, questo aprirebbe una voragine anche all'interno dei residenti palestinesi in Europa, con questa possibilità da parte di Israele di chiedere l'estradizione a chi vive e ha anche il riconoscimento dello status di rifugiato politico in Europa. Quindi ieri eravamo tanti da tutta Italia, dal centro Italia, dicevamo dalle Marche, dall'Abruzzo, dal Lazio, forti componenti da tutta l'Umbria, per gridare no alla estradizione di Yaesh, sì alla sua immediata liberazione. I prossimi appuntamenti sono previsti il 12 di marzo all'Aquila, di fronte al tribunale, dove Hanan non sarà presente perché sarà in videoconferenza dal carcere di Terni, ma ci sarà il suo avvocato Flavio Rossi Albertini, che proporrà tutte le ragioni per l'assurdità di questa estradizione, si opporrà chiaramente con tutte le argomentazioni a questa consegna dell'ostaggio, perché sarebbe questo, da parte dello Stato italiano, che deve assolutamente non attuare questa pratica. E il prossimo appuntamento, quello successivo, sarà il 20 di marzo a Roma, di fronte alla Corte di Cassazione, per un'ulteriore istanza che smonta proprio l'impianto su cui è stata costruita la richiesta di estradizione inconsistente in sé da parte di Israele. E quindi ieri, nei prossimi giorni, la mobilitazione sarà importante perché, come ha scritto, Ananda al carcere sente forte la vicinanza, la presenza sia dentro il carcere con i detenuti, ma anche la presenza dall'esterno. E ieri la voce è stata forte, chiara, dura, e è stato un passaggio secondo me importante per questa campagna che deve essere nazionale di mobilitazione per l'immediata liberazione di Anand Daesh. Franco Coppoli, coordinamento Ternano per la Palestina. Allora, noi avevamo presentato un'istanza 15 giorni or sono. È stata fissata questa Camera di Consiglio con estremo ritardo. Noi abbiamo sollevato diversi profili in base ai quali non sarebbe mai stata possibile l'estradizione di Anand. Troppo gravi le violazioni dei diritti umani in Israele, troppo praticata la tortura, troppe associazioni per i diritti umani internazionali riconosciute e affidabili che lo affermano. Francesca Albanese, la special rapporteur delle Nazioni Unite, non fa altro che confortare questi dati. È chiaro che non l'avrebbero mai potuto inviare. Vi è tra l'altro una discriminazione, un regime di apartheid, un doppio regime giuridico, un doppio regime giudiziario, una legge marziale a cui sarebbe stato sottoposto, corti militari. Tutte queste argomentazioni avrebbero impedito, se lo fossero posti prima, non l'avrebbero neanche potuto arrestare. Che cosa è avvenuto? Che per il nostro codice di procedura penale che cosa prevede? Anche l'impossibilità di estradare un soggetto quando quella persona, per lo stesso fatto per cui è richiesta l'estradizione, è sottoposta a una vicenda penale nel paese di richiedente. Per cui in questo caso noi facciamo i primi della classe, l'Italia farà la prima della classe, il più fedele alleato di Israele, perché lei stessa non fa altro che sottoporre a processo penale, a reprimere la resistenza palestinese, e al contempo può dire no senza invocare tutte quelle questioni che avevamo invece segnalato noi, per cui non verrà detto non vi possiamo consegnare a Anand perché altrimenti lo torturate, non ve lo consegniamo semplicemente perché lo stiamo processando noi. Guardate caso, ieri vi è stata esattamente questa misura cautelare, oggi il pubblico ministero ha tanto insistito per produrre questa documentazione, ci siamo opposti in ogni modo, ma anche perché non era la fase proprio neanche a livello della procedura estradizionale. La Corte comunque cosa ha fatto? L'ha acquisita per valutare la sussistenza di quel profilo che vi ho detto. Per cui questo è il punto. Che lettura è? Si sono riservati. Si sono riservati. In cui danno una risposta. No. Vedremo. E quindi che rischia di adesso? Sta sempre a terni, sempre a terni. No, io scusa, Anand era presente o no? Anand era presente. Come l'hai trovato? Ma Anand è un ragazzo in gamba, per cui sarà sicuramente bene. Anche gli altri due stanno all'Aquila. Comunque stiamo parlando di persone intelligenti, ragazzi intelligenti, per cui a meno che loro non decidano prima. Se dovessero decidere prima, automaticamente c'è un difetto di interesse e pertanto cioè non cadrebbe, per cui la ragione stessa del ricorso per cassazione. Decidono prima, potrebbero, perché spingendo il tuo ricorso.